Amen, amen. Il Signore è degno della nostra lode. Ed è una cosa meravigliosa stare insieme alla sua presenza, anche se siamo dispersi in mille case, in mille appartamenti. È bellissimo perché il Signore è ovunque. Grazie Fabio, grazie per averci portato davanti al suo trono. Facciamo un applauso a Fabio, forza a tutti quanti insieme. Grazie, bellissimo questo applauso. Li vedo questa mattina, questi applausi. Stamattina vorrei continuare a parlare di canto, di cantare. Tutto quello che abbiamo fatto finora in realtà è stato cantare. Tutto quello che facciamo quando ci riuniamo come chiesa è cantare. Perché è vero, ogni volta che ci incontriamo noi cantiamo attraverso dei canti. Il canto appunto è mettere in melodia delle parole, quindi cantiamo. Però cantiamo anche attraverso le nostre preghiere, attraverso la predicazione. Sapete che la predicazione è un canto di adorazione al Signore, perché espone chi Lui è, la sua gloria, la sua meraviglia, ed è chiamata ad accendere i nostri cuori per adorare l'unico e vero Dio. E quindi cantiamo tutti quanti insieme. E quindi questa mattina io ti chiedo, no, lì sul tuo divano, se sei come mio figlio adesso, sei sul divano con il piumone addosso, mezzo addormentato, quindi mettiti su, Elijah, e tutto il resto che va così, toglietevi il coperto, la coperta, quello che è, e ti chiedo: qual è il tuo canto? Qual è il tuo canto? Cosa stai cantando adesso, in questo momento, stamattina? Gianlu, ma tu, no? Siete anche liberi di farlo, no? Perché siete a casa, quindi io neanche vi ascolta nessuno. Gianlu, ma che cantare? Ma scherzi, in questo momento cantare? Eppure è così. La quarantena si è scatenata una cosa, non è stato il cantare, no? Dai balconi alle terrazze, dalle strade, tutti a cantare, quelli professionisti che dovrebbero, quelli che dovrebbero cantare solo a mente e non dovrebbero farlo perché non lo sanno, comunque lo fanno, ha scatenato il canto, tutti cantiamo. Che cos'è il canto? Che cosa la parola di Dio ci insegna del cantare? La parola di Dio ci insegna di cantare, e dico di più, ci comanda a cantare. E quindi questa mattina voglio leggervi solo i primi tre versetti del Salmo 96. Ascoltate cosa dicono. In realtà guarderemo solo a 3-4 parole di questi versetti, che sono fondamentali per i nostri cuori e per quello che Dio ci chiama a fare. Leggiamoli insieme, guardate, il Salmo 96. Cantate al Signore un cantico nuovo. Ripeterò dopo di me, ad alta voce, forza tutti quanti, forza, sì, anche quelli più che sono timidi, tutti quanti ad alta voce, cantate al Signore un nuovo cantico. Di nuovo, cantate al Signore un nuovo cantico, cantate al Signore un nuovo brano, una nuova canzone, cantate al Signore un nuovo canto, cantate al Signore, abitanti di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Sicuramente questo è un canto, no? Si deduce, cantate, solo nei primi due versetti lo dice tre volte. Cantate un cantico nuovo, cantate al Signore, beneditelo, cantatelo al Signore, annunciatelo ogni giorno. Tre volte dice cantate, cantate, cantate. Questo è un canto, e in realtà è un canto di Davide, ed è un momento molto importante nella vita di Davide. È un momento molto importante nel quale Davide alza questo canto, ed è il momento in cui finalmente, ricordate, Davide nel Vecchio Testamento era uno dei re, forse il re più importante, attraverso cui eredità sarebbe venuto Gesù, e lui sta celebrando un momento molto felice, molto gioioso, molto festoso della sua vita. Che cosa sta succedendo? L'arca del patto del popolo di Israele era stata via tanto tempo dal popolo di Israele e Davide finalmente riesce a riportarla a Gerusalemme, riesce a riportarla al centro del popolo di Israele. Perché è importante questo? Ricordate, anche il pastore stesso ha parlato dell'importanza dell'arca, del tempio, del luogo santissimo, no? Per riassumere, che cos'era l'arca? L'arca era un contenitore, in buona sostanza, con dei simboli dentro del patto che Dio aveva fatto con il suo popolo. Era tutta d'oro, aveva un coperchio massiccio d'oro, ho ricoperto d'oro, e poi c'erano due angeli, due cherubini su questo coperchio, che erano tutt'uno col coperchio ed erano di oro massiccio anche loro, e loro proteggevano, se vogliamo, con le loro ali questo patto. E la cosa importantissima, c'è scritto nell'Esodo, è che da questi due angeli, cioè da questo luogo fisico, fra i due angeli, sul coperchio dell'arca, il Signore parlava al suo popolo. Il Signore e la sua presenza si trovavano fisicamente fra questi due angeli nel luogo santissimo, prima nel tabernacolo, nel tempio dopo. E Davide era super gioioso, super felice, e per questo lui canta di gioia. Canta di gioia e dice: cantiamo un nuovo cantico. Perché? Perché l'arca era stata rubata da un altro popolo, è stata portata via, il Signore è stato allontanato da noi, ma adesso è tornato. E Davide canta, non solo canta, lui danza, danza a sfrenarsi proprio, perché è proprio felicissimo che l'arca del Signore rientra nel popolo, ritorna nel luogo prestabilito. Quindi Davide canta e felicissimo innalza questo canto, a contrario della moglie Mical, perché poi la moglie, no? la moglie del re, la regina, vede entrare Davide cantando e danzando e fa, se fosse stata barese, avrebbe detto: che mi accusi? Avrebbe detto così, no? Avrebbe detto: guarda questo, un re non ci si comporta così da re. No, in che stato? Davide non ha guardato a quello che gli stava attorno, non era preoccupato alle sue circostanze, a quello che gli altri avrebbero pensato di lui. Davide ha cantato di gioia al Signore. Al contrario della moglie, che si è preoccupata delle circostanze, si è preoccupata del suo status da regina, si è preoccupata di cosa gli altri avrebbero pensato di lui o di lei. Questo quindi è il canto di Davide, questo è il canto quando lo innalza Davide, questo canto. Però non è solo il canto di Davide, è anche un cantico o un canto o un brano, un canto che guarda alla fine. Che guarda la fine dei tempi, in questo senso è un canto profetico di quando Gesù tornerà. Questo è il canto, fatemi dire così, dei redenti, no? Di quelli che sono salvati, di quelli che, credendo in Cristo Gesù, che Lui è il Salvatore del mondo, cantano. Cantano perché Lui è tornato, perché c'è quei nuovi cieli e quella nuova terra, non c'è più dolore, non c'è più malattia, non c'è più sofferenza, non c'è più ansia, non c'è più paura. Quei redenti cantano perché la loro fede non è più solo fede. Quello che loro credevano come speranza in fede, adesso lo vedono faccia a faccia, Cristo Gesù che è tornato. E quindi è il canto finale, quello che alla fine dei tempi noi che crediamo in Cristo Gesù canteremo. Quindi è il canto di Davide, è stato, fatemi dire così, il canto di Davide quando la presenza del Signore è tornata, sarà il canto di chi ha fiducia in Cristo Gesù ed è salvato ed è suo figlio al suo ritorno. Però oggi è e deve essere il nostro canto. Perché? Perché è un comando. C'è scritto: cantate. Questo è un imperativo, è un comando. Cantate al Signore. Quindi guardiamo proprio queste parole, iniziamo a guardare da queste parole. La prima parola è proprio questa: cantate. Cantate. Io vi voglio parlare proprio del cantare e del... Vi ho portato un disco per farvi vedere, no, per ricordarvi, perché voglio proprio parlarvi anche del concetto di cambia il disco. cambia la canzone, cambia sto disco, non far girare sempre lo stesso disco. Questo è un disco, vabbè, sapete che io sono vecchio dentro, no? E quindi mi piacciono le cose vecchie, un po', questo è un vecchio disco di Louis Armstrong, e questo è il disco, ecco, vediamo se sta così, no, non ci sta, vediamo, sì, ci sta. Il disco, cantare, che cos'è cantare? L'ho già accennato prima, no? Il cantare è mettere in melodia le nostre parole, no? E liberare e dare libero sfogo ai nostri sentimenti più profondi, giusto? E quando noi sentiamo qualcosa così profondo che ci libera in canto. Ripeto, ad alcuni viene molto più tipo Fabio, quello la mattina si sveglia e canta, e lo può fare perché sa cantare. Altri come me lo fanno più dentro, no? Forse più di rado, però quando qualcosa si accende in noi, e allora noi cantiamo. Anche a mente vale, anche a mente vale. O con le parole, se scriviamo qualcosa, una poesia è anche un canto, anche scrivere un pensiero è un canto. Se viene dal profondo nel nostro cuore, se sono i sentimenti più profondi che noi proviamo e li liberiamo, quello è un canto. Anche forse per questo in italiano diciamo carta canta, no? Cioè quello che noi esprimiamo con più profonda verità e con più profondo sentimento è un canto. Il canto, il Salmo 96 ci chiama, ti chiama a cantare. Cantate, dice cantate, ci chiama a cantare. Io, tu siamo chiamati a cantare. Che cosa significa questo? A esprimere, cioè a scavare. Prima e più di tutto, nei nostri più profondi pensieri, più profondi sentimenti, più profonde cose che stiamo vivendo, prenderle e esprimerle. Dobbiamo cantare, dobbiamo lasciarle uscire fuori, magari con un canto letterale, no? E facciamo questa melodia, o come dicevo, scrivendo o esprimendo in altro modo, ma siamo chiamati a cantare. Il Salmo 96 ci chiama ad accendere le nostre più profonde emozioni, ad accendere il nostro cuore, a esprimerlo e a esprimerlo tutto. Ci chiama a risvegliare i nostri cuori e a cantare. Quindi il Salmo 96 dice cantate, dobbiamo cantare, siamo chiamati a cantare. La seconda cosa che dice però è al Signore. Quindi cantate, secondo me, al Signore. Ora, non credo che il Salmo 96 ci stia impedendo di cantare così, quando ci... Se volete, non credo che il Salmo 96 ci stia dicendo non puoi dedicare una canzone a tua moglie. Se vuoi, dedica una canzone a tua... Anzi, compito a casa, sul divano, adesso fate così a vostro marito, mi devi dedicare una canzone questa settimana. Quindi tutti i mariti questa settimana devono dedicare una canzone alla propria moglie, d'accordo? Vabbè, se la moglie dice non fa niente perché sa quanto siete intonati, magari dedicatele una canzone, tipo un vecchio disco o su Spotify o YouTube, dedicate una canzone. Quindi non credo che il Salmo 96 ci stia impedendo di cantare per qualche altra ragione a qualcun altro. Però quello che il Salmo 96 ci dice... Prima e più di tutto, e con costanza, di giorno in giorno, dice il versetto 2, di giorno in giorno, il nostro canto più costante, il nostro canto principale, il nostro canto più importante deve essere al Signore. E allora che cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati ad accendere i nostri più profondi sentimenti, il nostro più profondo cuore, la nostra anima la dobbiamo accendere, dobbiamo farle esprimere ogni giorno e prima e più di tutto il nostro canto al Signore. Questo è quello che il Salmo 96 ci chiama a fare, esprimi il tuo più profondo cuore. Esprimilo al Signore, canta a Lui, accendilo. Una cosa che non ci possiamo permettere di fare è essere assopiti, essere pigri, essere meccanici, essere ripetitivi, essere una lagna che ricicla a memoria. Se c'è una cosa che il canto del Salmo 96 ci sta dicendo è: cantate al Signore, accendete i vostri cuori, accendete le vostre emozioni, accendete il vostro più profondo e innalzatelo al Signore, sforzatevi di farlo. E questo è quello che il Salmo 96 ci dice di fare. È come il cuore di Davide, no? Il cuore di Davide è stato, poteva essere molto diverso, giusto? Cioè, finalmente Davide riesce a portare l'arca del Signore a Gerusalemme. La prima volta che ci aveva provato era andata malissimo, è stata una catastrofe. Questa è la seconda volta, ci riesce e lui poteva innalzare un canto a se stesso. Poteva dire: guardate quanto sono stato bravo, guardate, adorate la mia saggezza, la mia forza, la mia intraprendenza a voler fare questa cosa. No, Davide ha rivolto il suo cuore al Signore, ha acceso il suo più profondo cuore, il suo più profondo sentimento e ha detto: grazie a te, tu sei glorioso, tu sei degno, tu hai creato ogni cosa, a te sia la lode. Se poi vediamo il resto del Salmo, Davide adora proprio questo. Quindi questo è quello che il cuore di Davide ha fatto, questo è quello che noi siamo chiamati a fare, accendere i nostri cuori e adorare il Signore più di ogni altra cosa. Il nostro canto, il nostro cuore, che questi siano rivolti a Dio. Certo, il nostro canto magari non sarà di gioia. L'ho detto, il Salmo 96 è un canto di gioia, perché è una festa, è un'occorrenza unica per Davide e il popolo di Israele, e quindi gioisce e celebra. E dici: però adesso nella mia vita c'è proprio poco da festeggiare, c'è proprio poco da celebrare, c'è proprio poco da gioire. No, non importa. Alza il tuo canto, a prescindere da quello che sia in questo momento. Scava nel tuo profondo, mettilo in parole e rivolgilo a Dio, a prescindere da quello che è il tuo canto. Magari non è un canto di gioia, magari è un canto di tristezza o quant'altro, non importa. Purché tu innalzi il tuo canto al Signore. Guardate, i salmi stessi sono un esempio di questo, no? Vi ricordo, per esempio, ci sono canti di lamento. Salmo 13. Fino a quando, oh Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Davide ha scavato a fondo qui, e l'ha riversato tutto al Signore il suo lamento. Ci sono canti di invocazione. Il Salmo 141: Signore, io ti invoco, affrettati a rispondermi, porgi orecchio alla mia voce quando grido a te. Ci sono canti di fiducia, come il Salmo 27, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura io? Ci sono canti di fiducia, ci sono canti di liberazione, come il Salmo 34, canti di benedizione, come il 103, canti di ringraziamento, come il 100, il 107, a prescindere da qual è il tuo canto, prendilo. Prendilo, accendilo, sia vivo e rivolgilo al Signore. In questo momento rifletti: qual è il tuo canto? Qual è la situazione più profonda della tua vita? Rimettila nelle mani del Signore. Lui non ha paura, fratelli e sorelle, amici, non ha paura dei nostri sentimenti. Se il tuo canto è uno di lamento, non rivolgerlo all'altro, non rivolgerlo a tua moglie, non rivolgerlo ai tuoi figli, no? Rivolgilo a Lui. Lui sa cosa fare del tuo lamento. Lui sa cosa fare della tua paura, Lui sa cosa fare della tua ansia, Lui sa cosa fare della tua richiesta. Innalza il tuo grido, il tuo canto a Dio, a prescindere da quale esso sia. Canta, canta al Signore, canta e canta al Signore. Canta, prendi il tuo canto e cantalo al Signore. E la terza cosa è un canto nuovo. Quindi il Salmo, le prime tre parole del Salmo dicono: canta al Signore, canta un canto nuovo. Deve essere nuovo questo canto. Che cosa significa? E forse Davide sapete, no? Ne ha scritti così tanti di canti, che è arrivato a questo punto, dice, mo di che cosa canto? Forse non sapevo, beh vabbè dai, cantiamo un canto nuovo, e si è detto cantiamo un canto nuovo, non lo so se è stato così, però è un canto nuovo, la parola nuovo dall'ebraico, sappiamo che i salmi sono stati scritti in ebraico, il suo significato potrebbe essere anche fresco, come il grano fresco di annata. No, che il nostro canto sia fresco, non sia sempre il solito ritornello, non sia sempre la solita filastrocca, non sia qualcosa a memoria, vuoto e meccanico, che il nostro canto sia fresco al Signore. E guardate, se quindi per questo, cambia disco. Guardate, se io rifletto ai miei ritornelli, alle mie filastrocche, alle mie canzoni, è vero che è così, no? Sono sempre più o meno quelli i canti, no? Uno, due, ma al massimo tre diversi, se non proprio cantilene, no? E la cosa meravigliosa, sapete qual è? È che il Signore comunque le ascolta. Lui è un Dio buono, Lui ascolta il nostro canto, a prescindere da quello che è. E questa è la cosa veramente, il nostro Padre è un Padre buono e paziente, Lui ascolta quella filastrocca, quella canzonetta che tu risuoni e ricanti ogni volta. E anche le nostre cantilene, Lui le ascolta. Però il Salmo 96 ci ispira, ci guida a fare un'altra cosa, a cantare al Signore e a cambiare disco. Cambia disco. Se sei triste, prova a cantare un canto di gioia, anche se va contro tutto quello che sei o che stai vivendo in questo momento, questa angoscia della quarantena, non ce la fai più, non importa, inizia a ringraziare il Signore, cantagli un canto di ringraziamento, grazie Signore che sono chiuso in questa casa da 20 giorni o di più e non ce la faccio più, grazie. Vedrai come il tuo cuore si accenderà e cambierà. Il Signore fa un miracolo attraverso questo. Il tuo solito canto è un canto di, non lo so, di ansia, di paura. Canta un canto di fiducia, come io tendo a fare. Perché la mia canzonetta è sempre quella di ansia, di paura, di insicurezza. E allora quello che ho provato a fare, specialmente questa settimana, è ok Signore, io cambio la mia canzone e canto un canto di fiducia. Il Signore è la mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi io avrò paura? Questo è il mio canto di fiducia. Il tuo canto è sempre un canto di gioia? E allora forse devi cantare un canto di lamento. No, serio, se il tuo canto è sempre un canto di gioia, anche di fronte a... magari devi cambiare disco, lamentati per il peccato che c'è nella tua vita, ancora, lamentati per quello che no, ancora non cambia, lamentati, ma lamentati al Signore, perché Lui può fare la differenza, Lui può cambiare le cose, Lui trasforma le cose, quindi canta, tutti i canterini, da domani tutta la chiesa, fuori ai balconi, sui terrazzi, a cantare, d'accordo? Tutti a cantare, canta il Signore, canta un canto nuovo. Questo è quello che dice il Salmo 96 e poi nel verso 2 continua dicendo annunciate la sua salvezza. E con questo voglio arrivare alla conclusione. Annunciate la sua salvezza. Dobbiamo cantare al Signore un cantico nuovo e dobbiamo annunciare la sua salvezza. Forse con canto, forse con le parole, forse con la predicazione, dobbiamo annunciare la sua salvezza, perché se c'è una notizia, è una notizia buona, è che Gesù salva, che Dio, il nostro Dio, è un Dio che salva. Guardate, anche qui voglio scavare, perdonatemi se lo faccio, però scavo di nuovo un attimo nell'ebraico, perché appunto vi ricordo, il Salmo è stato scritto in ebraico, e la parola annunciare, un significato più esteso, una traduzione più estesa sarebbe, ascoltate, annunciare, o si potrebbe dire, rendere qualcuno allegro con una buona notizia. Quindi questo è il significato più esteso di questo termine in ebraico: rendere qualcuno allegro con una buona notizia. Questo significa annunciare, non è meraviglioso? Rendere qualcuno allegro con una buona notizia. E poi, quindi dice annunciare, rendere qualcuno allegro con una buona notizia, annunciare la salvezza, che Dio salva. La parola salva, salvezza, in ebraico, è la parola Yeshua, che significa appunto salvezza, salvezza dalla malattia, salvezza dal peccato soprattutto, ma Yeshua è il termine anche dal quale noi ricaviamo il nome Gesù. Gesù. Qui il Salmo, ispirato dallo Spirito Santo, già diceva la salvezza è in Cristo Gesù. Noi siamo chiamati ad annunciare, a rendere, sentite, a rendere qualcuno allegro dicendo Gesù salva, Gesù ti salva. Prima e più di tutto, secondo me, lo dobbiamo ricordare a noi stessi. Ogni giorno, qui c'è scritto, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, quotidianamente. La prima cosa sveglio che devo fare per me stesso è: Gianluca, il tuo Dio salva. Gianluca, il tuo Dio ti salva. Gianluca, Gesù salva. Io devo ricordare a me stesso che Gesù salva. E dobbiamo ricordarlo agli altri. C'è scritto proprio annunciate, no? Raccontare ad altri questa cosa allegra, questa cosa felice, questa buona notizia. Dobbiamo ricordare agli altri che il nostro Dio salva. Sapete, non c'è cosa più gloriosa in una pandemia globale, no? In una quarantena, un terzo del mondo, non lo so, forse sto esagerando, però tanti nel mondo sono chiusi in casa. Non c'è niente che porta più gloria a Dio di persone nel bel mezzo della pandemia, nel bel mezzo delle paure, nel bel mezzo delle incertezze future, anche economiche, che dicono e che hanno un messaggio di speranza e che dicono il mio Dio salva. Questo è quello che noi siamo chiamati a fare dal Salmo 96, come il suo popolo, annunciare, dare questa allegra notizia che il nostro Dio salva, che il nostro Dio salva dalle circostanze, che il nostro Dio salva dalle malattie, che il nostro Dio salva dal nostro peccato. Noi dobbiamo ricordarlo a noi stessi e dobbiamo annunciarlo agli altri. E per questo io questa mattina, a voi tutti che ascoltate, vi dico: cambiate disco. Forse stiamo sentendo che questa cosa chissà quando finirà e chissà come. Cambiamo disco. Il nostro disco, la nostra colonna sonora, la colonna sonora della nostra vita è una colonna sonora di speranza. E la nostra colonna sonora di speranza è Dio salva, il mio Dio salva. E io lo canto con tutto il mio cuore, vado in profondo, scavo in profondità e dico ed esprimo: il mio Dio salva, il tuo Dio salva, il tuo Dio ti salva. Dio è un Dio che salva dalle circostanze, salva dalle situazioni difficili. Il Dio tuo ti salva. E questa è la notizia più bella che io ho da darvi, la speranza più gloriosa che io ho da darvi, è che il nostro Cristo Gesù, morendo alla croce, facendo quel sacrificio ultimo, ha reso possibile una strada, una via, dalla morte alla vita. Perché voglio annunciarlo, voglio darti questa buona notizia questa mattina, a te che la conosci e che la sai da tanto tempo, voglio ricordarti questo canto. Ma anche a te che forse questa mattina la senti per la prima volta, ho da darti una notizia. Inizia con un po' una brutta notizia. E la brutta notizia è questa, è che noi abbiamo un problema molto più grave, una malattia molto più grave del Covid-19. È una cosa che si estende a tutta l'umanità e tutta l'umanità ne è già infetta. E questa malattia si chiama peccato. E da questa malattia se ne esce solo morti. E non solo morti qui su questa terra fisicamente, ma se ne esce solo morti, se ne esce morti eternamente. però a questa malattia, a questo irrimediabile destino, c'è una salvezza. E il nome di questa salvezza è Cristo Gesù. Lui col suo sangue lava da ogni peccato. Lui è l'unico vaccino che può guarire da questo virus che ci ha infettato e ci sta facendo morire. Lui è l'unico che, andando su quella croce e tornando a vita, cioè sconfiggendo la morte, dà a noi vita. Guardate, sì è vero, c'è questa cosa che stiamo vivendo, che è assurda, con nessun precedente. Ed è spiazzante, però ci deve far riflettere. A me ha fatto riflettere. Sapete, fra 100 anni, fra 120 anni, fra 150 anni, tutti quanti noi che stiamo ascoltando, che stiamo qui insieme, saremo tutti morti. Quindi o per via del Covid-19, o per un infarto, o per una malattia, o per vecchiaia, Dio volendo, un giorno moriremo tutti. Però chi ha creduto che Cristo Gesù è il Redentore? Chi ha creduto che Cristo Gesù è il Figlio di Dio? Chi ha creduto che Cristo Gesù salva? Passerà da questa vita alla vita eterna. La morte sarà solo un passaggio, passerà dalla vita su questa terra alla vita eterna e lo vedrà faccia a faccia. E lì non ci sarà più dolore, lì non ci sarà più malattia, lì ci sarà un'eternità di gioia a cantare il Salmo 96. Per chi non crede, quell'infezione rimane, quella malattia rimane e la morte sarà un passaggio dalla vita su questa terra a morte eterna. Per questo il mio invito è soprattutto a te che non hai mai rimesso la tua speranza, rimesso tutta la tua fiducia in un Dio che salva. Se non hai mai confessato, sì, Cristo Gesù, io credo che tu sei morto su quella croce per i miei peccati, per la mia malattia, per la mia infezione. A te io ti dico, fallo adesso, confessa questo adesso, alza il tuo canto adesso, riconosci adesso che hai peccato, che hai questa malattia, che hai bisogno di Cristo Gesù che ti lava, che ti guarisce e che toglie via da te la morte e che ti faccia passare dalla morte alla vita eterna. Gesù ha detto proprio queste parole, sentite quello che lui ha detto in Giovanni al capitolo 5, lui dice, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede ha vita eterna, passa dalla morte alla vita. E per questo io questa mattina ti chiamo, alza questo canto al Signore, di Signore sì, io ho peccato e ho bisogno di te. Cambia il tuo disco e confessa che Lui è il Salvatore, che Lui è un Dio che salva e la tua vita in questo momento passerà dalla morte alla vita eterna, dalla malattia alla vita più viva che più viva non c'è. Da una vita che nella pandemia più totale, nella confusione più totale, ha una speranza. E questa speranza è una forza, è una fiducia che porta sempre gioia e che può far sempre cantare al Signore un canto nuovo. Cantiamo insieme questo canto. E allora ti invito ad alzarti in piedi, dovunque sei, se sei libero di farlo, se sei da solo nella tua cameretta, se sei con la tua famiglia, alzati e canta il tuo canto. Io ho sfidato la mia famiglia questa settimana a scrivere il nostro canto. Ci stiamo ancora lavorando, ma ognuno sta scrivendo la propria frase di ringraziamento e lode al Signore. Innalza il tuo canto. E questa mattina, se non conosci Dio come tuo personale salvatore, allora alza il tuo canto, grida al suo nome e chiedi per salvezza e Lui ti salva. Preghiamo insieme, innalziamo un attimo insieme il nostro canto a Lui. Signore Gesù, noi veniamo davanti a Te perché Tu sei degno, perché non c'è nessuno come te. Padre, noi ti innalziamo perché tu sei buono, tu sei creatore, Padre, tu sei salvatore. E Padre, nella nostra circostanza, Signore, in questo mondo dove magari capiamo poco di quello che sta accadendo, Padre, il nostro canto va a te, perché tu riempi il nostro cuore di speranza e di gioia. E Padre, io prego per coloro che questa mattina hanno confessato nei loro cuori che hanno peccato, che hanno questa malattia e che hanno bisogno di te come unico rimedio, come unica salvezza. Io prego, Signore, in questo momento di intervenire. Padre, io prego affinché il sangue di quella croce che tu hai versato per ognuno che crede possa essere efficace in questo momento per chi ha innalzato quel grido e salva. Salva in questo momento, porta dalla morte alla vita e alla vita eterna. Padre, da qualsiasi casa, qualsiasi appartamento, qualsiasi divano, qualsiasi sedia o qualsiasi letto, salva, salva dalla morte eterna alla vita, nel nome glorioso del tuo nome. Forza, alziamo tutti quanti insieme un canto, alziamo tutti quanti insieme un canto al Signore, perché Lui è degno. Cantiamo al Signore un canto.